Allora, abbiamo al telefono Lidia, ci senti? Sì, ti sento. Oh, okay. Ecco, finalmente siamo riuscite. Allora, ciao Lidia Cirillo, ti abbiamo chiamata per aiutarci, siamo nel nostro spazio agenda, a lanciare questo appuntamento del 9 novembre a Firenze per un femminismo di movimento e di lotta. Voi partite da un'analisi, insomma, della crisi economica, dalla necessità di prendere posizione rispetto appunto alla crisi economica. Se ci puoi aiutare intanto a a raccontarci un po' come è nata l'idea di questo appello, questa necessità che in buona parte comprendiamo, e poi ci puoi raccontare un po' i contenuti. Sì, senti, guarda, parto un po' da come la cosa è nata. È nata perché a Firenze tra l'8 e l'11 novembre c'è questo incontro internazionale, il Forum Sociale Europeo, che ricorda il Forum Sociale del 2002, che fu un evento molto importante. Beh, il rischio di una adunata di reduci c'era, lo dico molto francamente, io ero piuttosto perplessa, però devo dire che è diventata un'occasione di incontro con reti internazionali in un momento in cui l'Europa è sotto attacco dei mercati finanziari tutta ugualmente, e quindi da una cosa un po' nostalgica del movimento dei movimenti si sta trasformando invece in un incontro di reti internazionali, e noi incontreremo compagne soprattutto della Grecia, della Spagna, dei paesi dove il conflitto è più forte, e che hanno già cominciato a mettere in atto pratiche di resistenza sulla questione della crisi economica, dell'austerità, del debito, e abbiamo voluto approfittare di questa occasione per vederci tra tutte quelle che non si sentono rappresentate dalle reti esistenti e che pensano a un femminismo di movimento, di lotta, in modo particolare sulla questione della crisi del debito. No, non so se mi senti. Mi senti? Sì, sì, ti sentiamo bene. Ah, sì, sì, male. Benissimo. Volevamo un po' approfittare dell'occasione, perché ci stavamo dicendo con un certo numero di compagne, di amiche, eccetera, ma forse sarebbe necessario, insomma, un po' un femminismo. Noi non vogliamo criticare altre esperienze, diciamo, poi che mille fiori fioriscano, come si diceva ai miei tempi, che tutto va bene, ma noi siamo un femminismo che ha un altro modo di affrontare, appunto, un altro modo di essere, e in modo particolare in questo momento siamo convinte che stiamo attraversando e stiamo per attraversare soprattutto un momento gravissimo, perché la crisi diventerà sempre più acuta, sempre peggiore, e coinvolgerà sempre di più la vita di uomini e donne, di donne, come dice l'appello, in maniera particolare e diversa. Sì, infatti, voi giustamente, insomma, sottolineate come in particolare le esistenze e le esperienze femminili saranno condizionate proprio in modo specifico da questo. E ci sembra anche interessante il respiro, appunto, non solo italiano, perché è una condizione, diciamo, generale. Possiamo dire quando si svolge questo incontro? Dunque, questo incontro si svolge alla Fortezza d'Abasso di Firenze il 9 novembre, venerdì 9 novembre, a partire dalle 14. Ci saranno tutte le indicazioni. Chi arriva alla Fortezza d'Abasso, che è abbastanza conosciuta perché è stato luogo di incontro nel 2002 del Forum Sociale Europeo, poi troverà tutte le indicazioni per trovarci. Voglio aggiungere una cosa: noi non proclamiamo nessuna rete, nel senso che non diciamo siamo la rete. Abbiamo ricevuto tantissime adesioni dalle parti più diverse, per fortuna, dalle collocazioni più diverse, perché non ci andrebbe essere connotate con specifiche connotazioni. È molto molto vario e ampio l'arco delle compagne che hanno aderito a questa iniziativa, ma noi diciamo, siccome sono state fatte tante esperienze, noi vogliamo prima discutere su come si costruisce una rete, come si convive che cosa significa costruirla, perché ci sono state esperienze che sinceramente non vorremmo ripetere. Quindi vogliamo discutere di come si sta insieme, che cosa significa stare insieme, quali regole minime bisogna darsi per evitare che tutto si trasformi in una specie di rissa. Allora, diciamo, se dobbiamo litigare non c'è bisogno di fare una rete. Una rete certo. Si fa quando ci si danno degli obiettivi comuni, pochi magari, un certo numero di obiettivi, di scadenze, e si lavora sulle cose che uniscono. Poi, per polemizzare, naturalmente la polemica è sempre, può essere positiva, può essere costruttiva, anche non costruttiva, non ha importanza, ma per una polemica non si costruisce una rete, non è uno strumento adeguato. E quindi vogliamo discutere con le altre su come si sta insieme, e soprattutto, diciamo, vogliamo anche discutere di pratiche per ristabilire dei rapporti, dei contatti tra il femminismo e le tantissime donne che femministe non sono, nel femminismo non si riconoscono, ma il cui contributo e la cui presenza, la cui massa critica, come dicevamo nel 2002, è assolutamente indispensabile. Quindi discuteremo di questo, della crisi prima di tutto e della gravità. Io voglio dire una cosa, oggi c'è scarsa sensibilità sulla questione della crisi, qualche volta io ho l'impressione, perché c'è una non comprensione di quello che ci aspetta. Insomma, la Grecia è stata sottoposta alla stessa cura a cui adesso il governo Monti sta sottoponendo il nostro paese, esattamente la stessa cosa. E Monti diceva: ah, meno male che adesso si interviene sulla situazione greca, così eccetera eccetera, così la Grecia, sappiamo le condizioni in cui si trova. Quindi uno, parlare della crisi; due, parlare di come si sta insieme; tre, parlare di alcune pratiche sperimentali di creazione nuova di una relazione con il corpo sociale, cosa che noi consideriamo assolutamente indispensabile. O il femminismo si isola a pochi rapporti con il resto del mondo e viene travolto anche dalla crisi della politica. In fondo il femminismo è politica, e la crisi della politica rischia di coinvolgere anche il femminismo, se il femminismo si limita ad autocompiacersi dei propri successi passati. Il mondo cambia, le cose cambiano, e sì. Quindi ecco. Va bene, Lidia, allora grazie, sicuramente grazie, ci sarà occasione dopo il 9, insomma, di tessere un po', fare qualche restituzione di questo incontro anche insieme, insomma, magari, e quindi vabbè, buon proseguimento, buon lavoro, grazie. Grazie tante, Olga, grazie mille, ciao. Ciao.